Radiazione 6 giugno 2014, questa è la diretta d'azione del venerdì e quindi diretta d'azione che riguarderà solo controinformazione, qualche riflessione, la musica. Invece quella per chi stava ascoltando prima la radio era la diretta che abbiamo fatto lunedì scorso, che non è stata ancora pubblicata in podcast e quindi si è mandata ora come pre-diretta alla diretta odierna. I due podcast poi verranno pubblicati insieme, sia quello di oggi che quello di lunedì. Quindi oggi è diretta d'azione con controinformazione, riflessione e musica. Ricordiamo gli indirizzi utili di radiazione, che sono radiazione@chiocciolinaautistici.org per quanto riguarda la mail, per chi vuole mandare scritti, comunicati, notizie da far pubblicare sul sito di radiazione. Lo ricordo che non tutte le notizie vengono pubblicate, bene o male, prima di mandare le vostre news, le vostre notizie, i vostri comunicati, guardate bene radiazione come è improntato, così evitiamo di fare censure. Radiazione.org è il sito dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete anche scaricarvi un bel po' di opuscoli, manifesti, CD e materiale messo a disposizione nella pagina dei download, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione e dove potete ascoltare la radio quando c'è la diretta d'azione in diretta, cliccando o sul banner che trovate in home page quando ogni giorno della diretta, oppure sulla sidebar c'è il lettore flash player, pinciate su play e riparte la diretta. Ricordo che radiazione non è solo in lingua italiana, è anche in lingua croata. Trovate il banner sempre sul lato sinistro del sito, ci cliccate sopra e vi si apre la pagina in croato. Per chi ci capisce si può informare, per chi non ci capisce allora può tornare a radiazione in lingua italiana. Allora, questa radio trasmette sul server anafia.net, messa a disposizione a comando di Anafis Library, che salutiamo sempre. Questi erano per gli indirizzi utili di radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cubanet con il brano White Room, non apposta da questa stanzetta con tanto di aria viziata, però è bianca, cioè non è proprio bianca. È un po' macchiata. Ci ascoltiamo sul brano dei Cubanet White Room e poi dopo si torna qui con la diretta d'azione e la prima notizia di controinformazione. Where will you be when all the drugs wear out? come detto prima, erano Cubanette con il brano White Room. Mi ero dimenticato di dire che lunedì prossimo, invece, come tutti i lunedì, ci sarà l'appuntamento con la diretta d'azione, che comprende non solo controinformazione e musica, e le riflessioni e le provocazioni. Comunque, no, senza provocazioni non si può vivere, non si può vivere. Ogni tanto anche una risata, oppure andare a punzecchiare qualcuno, fa bene, fa bene. Poi anche quando punzecchiano me, io mi diverto, con gli altri boh, non lo so, penso di meno quando li punzeccio io, dato i risultati. Allora, dicevo, oltre alla controinformazione, le riflessioni, le provocazioni e la musica, è soprattutto giornata di letture. Stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, l'ultimo libro per quanto riguarda quest'anno le dirette di radiazione, che approssimativamente dovrebbero terminare a metà luglio. Non si va in vacanza, è solo che fa caldo, siamo chiusi nella cameretta con tanto di aria viziata, e quindi potremmo rimanerci stecchiti durante la diretta, quindi non ci conviene. Già abbiamo sudato tantissimo l'anno scorso, abbiamo finito la prima settimana di luglio, figuriamoci andando oltre. Quindi appuntamento con I Sabotatori di Edward Abbey e Marcello, che se sta ascoltando lo saluto, a lunedì prossimo, lunedì 9 giugno. Allora, ora, come dicevo, prima notizia di controinformazione, partiamo bene, partiamo con una notizia più soft, più rilassante, con che arriva da Santiago in Cile, dove c'è una rivendicazione di attacchi incendiari ai bus Transantiago, della Transantiago. Leggiamo il testo rivendicativo. Il 3 giugno ci siamo organizzati in complicità con la notte per mettere 3 ordigni incendiari in 3 diversi autobus che attuano 3 percorsi diversi del servizio cittadino Transantiago, con lo scopo di dar fuoco a quelle macchine trasportatrici degli schiavi postmoderni. Come gruppo ci rivendichiamo l'azione perché non venga cambiato il senso politico e combattivo che non si muove per evitare la speculazione dei media del potere e gli enti vigilanti, mettendo in chiaro senza entrare in noiose giustificazioni. Siamo in guerra contro la civilizzazione, la sua società, i loro difensori e i suoi falsi critici. Siamo compagni e difensori della natura, della terra e degli animali che soffrono il sinistro progresso dell'addomesticamento della globalizzazione capitalista. Libertà per Sol, Adriano, Gianluca, Alfredo Cospito, Nicola Gai, Anselmo Maier, Ernest Gonzalez, Alfonso Vial e tutti gli altri prigionieri in guerra al mondo marcio. E nei nostri ricordi e nel cuore ci sono sempre Sebastian Ovesluji, Maurizio Morales e Alexander Grigoropoulos e tanti altri, per la liberazione animale, umana e non umana, e della terra. E questa non l'ho capita veramente, anche traducendolo, ho visto e rivisto, ma la traduzione è questa. Poi spero che qualcun altro riesca ad illuminarmi. Questo era lo slogan con cui finiva il testo: manata de choque anarchico nichilista. Questa era la prima notizia per quanto riguarda la diretta di oggi. Ce n'è un'altra breve, la diamo subito, riguarda sempre Santiago del Cile, dove il compagno Victor Montoya è stato assolto. Secondo le informazioni fornite da compagni della Defensoria Popolare, oggi, giovedì 5 giugno, verso le ore 10, il Tribunale Orale nel carcere di Puente Alto ha emesso la sentenza nel caso di Victor Hugo Montoya Encina, 23 anni, detenuto per 16 mesi in carcere, accusato di essere il responsabile dell'azione con un ordigno esplosivo contro la caserma di Divis Casas il 9 febbraio 2013. Victor Montoya è stato assolto e speriamo di vederlo presto per le strade, ma allo stesso tempo non siamo stati molto contenti di vedere l'ennesima montatura fatta dalla polizia. Aggiorneremo il caso al più presto possibile. E questo era il testo che ci facevano, che prendiamo direttamente da uno dei siti di controinformazione cilena. Noi speriamo di avere presto anche gli aggiornamenti, e altri aggiornamenti che proprio oggi dovrebbero arrivare dal Cile, dove c'è la sentenza. Alle 2 sarebbe dovuta esserci la sentenza per il caso Security. vediamo se si riescono ad avere gli aggiornamenti in corso di diretta, altrimenti troverete la notizia o entro stasera o domani. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Interface con il brano Angels in Disguise, e poi dopo si torna qui con una nuova notizia di controinformazione. Ovviamente io vi ho detto una cappellata atroce, vi ho detto una cazzata enorme, cioè praticamente la sentenza è alle 2, non è in Europa, siamo in Italia, si parla del Cile, quindi si avranno notizie e lo faremo sapere attraverso il sito di radiazione. Poi ci ho pensato ora perché guardavo Cile, e alla fine faccio, ho detto la cappellata del giorno. Ok, un grande applauso e si va avanti risalendo un pochino più in sud, siamo in cima all'America del Sud, con una lettera che già volevo leggere da meno due dirette e non ci sono riuscite, la lettera di Carlos Lopez sulla sua situazione carceraria. Ricordo che comunque il compagno è uscito, però la lettera vale la pena leggerla, perché comunque bene o male spiega la situazione nelle carceri in quella nazione che è il Messico. Allora, la spezzetteremo in due parti perché è bella lunga, intervallo con un brano breve. Allora, saluti compagni. Scrivo questa lettera spinto dal forte bisogno di comunicare con i compagni fuori. Sono convinto dell'importanza di essere informati su ogni caso di lotta contro ciò che comunemente chiamiamo il nemico, cioè lo Stato capitale, dalle sue istituzioni meschine e i suoi metodi fascisti di controllo. La lotta anticarceraria è importante e proprio in questo la mia necessità di condividere la mia situazione come prigioniero anarchico, mettendo in chiaro a priori che in nessun momento ho cercato di passare come una vittima per quello che sto passando, perché come ho detto o scritto in passato, non credo e non accetto la presunta innocenza o colpevolezza per i reati per cui vengo accusato, che mi ritengo un anarchico con progettualità insurrezionalista e rivoluzionaria, sequestrato dallo Stato, e non una vittima di sequestro come ho letto in qualche comunicato. E il motivo per cui condivido la mia situazione carceraria è per denunciare pubblicamente solo una piccola parte del modo di operare di questa istituzione schifosa. Se non si vede, non esiste, e dentro le mie limitate possibilità farlo attraverso questo tipo di censura è parte della mia lotta anticarceraria. Circa un mese fa, a metà marzo, quando era ancora nel primo periodo dell'ingresso in carcere, si è verificato il primo fattaccio. Verso le 7 di sera ero con un compagno di cella, quando improvvisamente si avvicina un tipo di losca figura, che di sicuro non conoscevo, e inizia a provocarmi, offendendomi ed a spintonarmi. Una delle dinamiche del carcere è quella di picchiarsi quando è in gioco la propria reputazione, che reputo una maledizione. Cosa che reputo una maledizione? Ma per la durezza delle parole e dello stress della prigionia caddi in questa dinamica. Dopo un po' di colpi, come per magia, apparvere due guardie, raro o non così frequente che la polizia entra nel corridoio delle celle, e ci beccarono in piena lotta. Essi normalmente tendono a calmare gli animi a schiaffi e pugni per sottomettere le persone che litigano, e così lo hanno fatto con me e il tipo pesante con cui stavo litigando. È un'enorme impotenza non essere in grado di difendersi contro questi cazzo di sbirri di merda, perché arrivano a farti un altro processo per aver aggredito la tua verità puttana. Ho pensato che la cosa sarebbe finita lì, ma non fu così. Dopo averci umiliato di fronte a tutti i prigionieri presenti, ci portarono per le scale a spintoni. Improvvisamente non vidi più il mio iniziale aggressore e portarono solo me. Fino ad oggi non ho saputo niente di lui e al raggiungimento di un ufficio mi picchiarono di nuovo. Avevo superato il livello di sopportazione ed iniziai a insultarli verbalmente con la ferma idea di passare all'insulto fisico, ma non mi diedero la possibilità di farlo perché ancora una volta mi colpirono fortemente. Non mi ricordo il percorso, ma mi portarono in una stanza buia e prima di arrivare lì mi spogliarono e mi lanciarono una bottiglia d'acqua nella stanza, quindi mi colpirono ancora una volta, non potrò mai dimenticare di loro, e mi buttano nella stanza. Era notte, faceva freddo e mi portarono via tutti i vestiti. Il pavimento era bagnato, con molti colpi ricevuti al corpo, la stanza senza un solo raggio di luce. Si può immaginare che notte si possa passare. Avevo paura, rabbia e impotenza. Mi permetto di qualificare come torture fisiche e psicologiche. Non ho mai avuto paura del buio, fino a quella notte. Circa 10 ore guardando senza vedere tutti i lati in attesa che accadesse qualcosa, fino a quando non albergiò e mi fecero uscire di lì. Ovviamente era un altro carceriere di turno. Mi portarono in cella, mi minacciarono di non dire nulla su quello che era accaduto e quando raggiunsi la mia cella preferì non parlare con nessuno, non per la minaccia, ma perché ero ancora scioccato. Casualmente, lo stesso giorno, mi hanno trasferito al centro di sterminio chiamato Reclusorio Oriente e durante la notte entrai nel COC, Centro per l'Osservazione e Classificazione, dove da quando circa 150 detenuti siamo entrati, siamo stati accolti con il solito terrore psicologico. Mi aspettavo che al COC, l'ho detto in inglese, COC, avessi trovato un'altra sorpresa, quando subito fummo chiamati per la famosa faina, che è la pulizia dell'edificio, o meglio la presunta pulizia, perché è in realtà un pretesto per fare una sporca estorsione. E darci le indicazioni, dissero a tutti al scile, espressione molto comunemente usata qui. Chi si va a scontrare e pagare 2500 pesos per non fare la faina? Ciò perché ognuno di noi si prendesse le proprie responsabilità e in qualsiasi modo pagasse, mentre alcuni accettarono la loro richiesta. Ma altri decidemmo di affrontare la faina. Mi ricordo che non dicevamo è meglio pagare mi ricordo che mi dicevano è meglio pagare, guerriero, è necessario che tu abbia i soldi, non fare cazzate, altrimenti faremo in modo che ti prendano a pugni. Quel primo giorno ho fatto la faina, che consiste in un esercizio di un modo quasi disumano, con l'intenzione che il tuo corpo ceda e sei costretto a pagare, sempre con un gorilla dietro di te che esige ritmi veloci che se non esegui ti colpisce. Questo accade 2 volte al giorno, circa 3 ore di tortura. Il giorno dopo mi hanno ripetuto solo per te i migliori pugni e dopo mezz'ora di faina, mentre facevo una sorta di carlitos che consiste nello stare piegati e pulire il pavimento con un panno umido, questo a gran velocità, sono caduto e sono stato sollevato dal lato posteriore del pantalone. Di per sé ho alcuni, problemi con la schiena, perciò non riesco a muovermi in modo veloce. Il dolore era troppo e ricordo che mi voltai per vedere l'aggressore, un prigioniero pecora che lavora per quelli della faina, e mi venne voglia di rispondere, ma ancora una volta non potevo battermi perché erano passati solo 2 giorni dai colpi ricevuti e dalla camera oscura, e ora con il mal di schiena non era proprio il caso. Siccome dovevo trattenermi, sono andato dal responsabile delle faine che mi disse: se non ce la fai, allora paga. Fu così che sono caduto in questa estorsione. Ho dovuto chiamare qualcuno che per me ha depositato 2000 pesos. Quando ho parlato con questa persona che ho citato, non ho potuto fare a meno di piangere a causa della grande impotenza e il dolore, ma non ho mai dato loro il piacere di farlo durante quelle faine schifose. Faccio una breve pausa per ricordare che non mi ritengo, nonostante tutto, una vittima. Offeso sì, perché hanno tentato di calpestare la mia dignità. Come coincidenza, dopo 2 settimane è stato negato l'accesso ai colloqui con mia madre, che era l'unica visita che ricevevo, sostenendo che c'era un problema con la sua identificazione al COC. Le merde ti fanno una perquisizione, rubano denaro e scade telefoniche. Non avevo soldi, ma presero la scheda che avevo insieme alla mia agenda con i numeri di telefono. In quelle 2 settimane sono stato in isolamento, uno strano isolamento. Ho potuto solo fare una telefonata per chiedere soldi. The bustling, the seas of mangled tenure and accretion, the ancient era, e questo era per farmi un bicchiere d'acqua, un sorso d'acqua dalla bottiglia, qua bicchiere, non c'è il bicchiere, c'ho la bottiglia, mi attacco alla canna, alla canna della bottiglia, no, alla canna da fumare, non ho nulla a incontrare con chi fuma le canne, assolutamente, era la canna della bottiglia. Allora, dicevamo, le medie ti fanno una perquisizione, rubano denaro e schede, non avevo soldi, ma presero la scheda che avevo insieme alla mia agenda con i numeri di telefono. In quelle due settimane sono stato in isolamento, uno strano isolamento, ho potuto solo fare una telefonata per chiedere i soldi. Non ho mai pensato di andare a lamentarmi con le autorità dell'istituzione, siccome fanno parte della stessa banda di serpenti in totale complicità. Tantomeno richiamare i diritti umani, perché i loro diritti sono una convenienza in cui non credo. Toccando il tema dell'estorsione, voglio già dire, quando mi riferisco a estorsioni, parlo di una pressione che qualcuno esercita per ottenere dei buoni risultati da qualcuno, anche contro la tua volontà, che per causa X è al di fuori del tuo controllo. Non all'estorsione in cui alcuni ti chiedono i soldi e tu per paura cadi per non essere colpito così tanto. E una persona a me molto cara una volta disse: Cia, non dare loro soldi, come se avessi avuto la possibilità per una, come avessi avuto un'altra possibilità. Non era la sua intenzione questa, ma capisco che molte persone possono essere di questa idea. Per quanto riguarda l'estorsione, per il tema in questione, il carcere e la lotta anticarceraria, dico che qui fanno pagare per qualsiasi cosa, in realtà per tutto, e questo mi suona strano e mi preoccupa molto anche che nessuno dice niente. E so che quello che dico qui non cambia nulla, ma io non intendo far parte di questo gregge di pecore. Fanno pagare per l'uso del WC, quello che sta in cella non è sufficiente per molti detenuti in una piccola cella, per utilizzare l'acqua del rubinetto, perché se ne ha tanto bisogno nelle celle, per fare la lista, credetemi, solo per passare la lista, per andare in tribunale, per ricevere il vostro avvocato, per ricevere l'assegno, o parte l'uso, a parte l'uso del tavolo che si utilizza per scendere le scale nel giorno della visita, uscire dalla tua cella, lo chiamano desapando, nelle celle comuni ti sequestrano i lucchetti e per poterti trasferire di cella o dormitorio fanno pagare ingresso, cucina e comunità, materiali come scope, saponi, bidoni, tergivetro e non so che altro, eccetera eccetera. Questo è il commercio, e state attenti, dove ci si rifiuta di pagare c'è la mano pesante. Non posso non menzionare i laici, che sono come i pidocchi bianchi, le cimici e i scarafaggi, sono parte della loro prigione, picchiano duro. Un altro aspetto che non mi piace, in realtà non piace a nessuno, è il sovraffollamento. Nell'ingresso e le comuni, diciamo subito l'ingresso cosa vuol dire, io ho messo una nota un po' dall'articolo, l'ingresso è la prima cella in cui vieni, tra virgolette, ospitato al momento dell'arresto, quindi nell'ingresso e le comuni, quindi le celle dove vieni trasferito dopo, sono molto piccole, almeno nella mia esperienza di ingresso in una piccola cellula di circa 3x2,5 metri, eravamo circa 23 detenuti e nelle celle in comune abbiamo vissuto in 17. È molto scomodo e anche pericoloso per il fisico il modo in cui si dorme, se si dorme, in particolare quelli nuovi dormono su delle traverse poggiate sul bordo della tazza del cesso. Il sovraffollamento nelle carceri messicane è preoccupante, almeno in Oriente lo posso constatare. E anche se siamo in tanti non accade nulla. Qui i metodi di addomesticamento sono notevoli, come nel caso della religione, incredibile il numero di persone che ti dicono forse siamo qui per volontà di Dio, questo è un segno che noi dobbiamo rispettare la sua volontà. Contano, cantano e pregano sperando di uscire da lì a breve. Quando sanno che io sono ateo e credo che per me essi sembrano degli ignoranti accecati dal dogma, si allontanano da me o iniziano a fare domande di qualsiasi tipo, ma questo è un altro argomento. Un altro caso per tenere i prigionieri passivi è la droga. E riguardo a questo argomento ho sempre pensato che ognuno è libero di scegliere come vivere la propria vita, assumendo o meno droga o che tipo di droga, ma ho anche sostenuto che il suo uso spesso è una barriera che blocca l'individuo a portare avanti i propri obiettivi rivoluzionari, deviandolo in un letargo di felicità artificiale, soprattutto con le cosiddette droghe pesanti, questo tra le altre cose. Il carcere diffama il detenuto, lo umilia, lo calpesta e cerca di uccidere la sua dignità rendendolo un avanzo umano senza volontà, servile e obbediente, assegnando la posizione di pecora o infame per chi mostra la fedeltà al sistema, calpestando, isolando e punendo coloro che non rispettano le sue leggi idiote e disobbediscono alle sue pratiche di terrore. Perciò io mi dichiaro prigioniero anarchico in lotta anticarceraria. Guardiamo in faccia al potere da dentro il carcere e spingi a preservare la nostra identità di persone che sentono amore per la libertà, per la nostra dignità e difendere ciò che siamo, liberando i nostri impulsi più selvaggi, che di fronte a tanta umiliazione diventa necessaria anche per il più distruttivo del nostro carcere, del nostro essere. Mi considero una persona libera, anche dentro il carcere, e così sarà anche mentre cercano di distruggere la mia individualità, mentre il loro metodo di controllo e di dominio non riuscirà a attraversare il mio cuore nero, fino a quando ci sarà la solidarietà dei compagni liberi verso i detenuti nelle grinfie di qualsiasi carcere, di qualsiasi centro di sterminio e ogni istituto di subordinazione. La tattica del terrore e di paura del carcere non possono fermare l'uragano di passione creativa, passione costruttiva e passione distruttiva, questo progetto liberatorio. E anche se affrontare la sua autorità porta ad un risultato eminente di repressione, qui nessuno vacilla, nessuno fa un passo indietro contro il nemico odiato. Il sistema carcerario intende farci capire che la sua violenza contro di noi è una cosa normale, vuole abituarci in modo che capiamo che questo dovrebbe essere la prigione. A me personalmente non mi addomestica, non temo ritorsioni. Io non sono uno di quelli che si dichiarano nemici dello Stato e intanto cercano di rendere la loro vita normale senza problemi, normale tra virgolette. Questo non mi conviene. Io non sono uno di quelli che viene colpito e porge l'altra guancia, non sono come chi è in attesa che le condizioni siano buone per agire, no. Piuttosto penso che l'aggressione deve essere restituita due volte, occhio per occhio, alla loro violenza, alla nostra violenza antagonista, agendo senza che i tempi siano maturi perché tante volte questi arrivano tardi, rispondendo ad una fiammata con un incendio. Non finisco di scrivere tutto, però abbattiamo le mura del carcere, fuoco alle carceri per l'anarchia, Carlos Civo, Prigione Oriente. E questa era la lettera bella pesante di Carlos, che purtroppo è apparsa, come leggevamo prima, lui diceva un mese fa e si riferiva a marzo, quando è stato trasferito al reclusorio Oriente. Purtroppo la lettera è arrivata a me, è stata pubblicata molto tardi, è stata pubblicata a maggio, quindi oltre un mese e mezzo o quasi due. Qui l'ho tradotta e l'ho ripubblicata, nonostante già fosse arrivata la notizia che Carlos fosse uscito e finalmente è uscito da quell'inferno. Immagino che già le carceri italiane sono quello che sono, e lo posso anche qui, anche io posso, l'ho potuto constatare. Non voglio immaginare un carcere messicano, sono straconosciuti i carceri messicani per quelli che sono. Quindi fortunatamente Carlos è fuori, però nonostante Carlos è fuori noi non dovremmo mai dimenticarci che il carcere esiste, nonostante, anche se tutti i compagni di tutto il mondo escono fuori, il carcere continuerà ad esistere e quindi il nostro primo obiettivo sarebbe quello di distruggerlo, no, chiedere amnistie o riforme carcerarie. Ora, dopo la lettera di Carlos, ci mettiamo un bel brano lunghettino, X-Mark The Pedwalk Repression, nemmeno a farla apposta, e poi dopo si torna qui con altra controinformazione. Allora, mi sono acceso pure la sigaretta, ma adesso sono ad ora, quindi non ce l'ho fatta fumare in tempo. Allora, si arriva al momento cruciale, all'ora cruciale. Da qui a poco cadrà la connessione, lo sappiamo. Anche perché ho visto connettersi un utente in più e quindi molto probabilmente è lui che prende il turno, ha avuto il cambio del turno e ora si divertirà a farci cadere la connessione. E allora avviso chi sa già, appena cade la connessione, di mandarvi immediatamente un messaggio, così cerchiamo di riavviare il tutto più veloce possibile. Per voi che non potete mandarmi un messaggio perché non sapete il mio numero, almeno penso tra quelli che non mi conoscono, provate a riaggiornare la pagina fino a quando non vi ripartirà la diretta d'azione. Allora, ora dopo essere stati un bel po' in America Latina, così solo con la controinformazione, non in vacanza purtroppo, si passa ad Atene, in Grecia, dove sono stati esplosi dei proiettili contro lo scout Vox. Leggiamo il comunicato, tra l'altro ho letto una notizia che a Caterini, questa è nuova, non sono riuscito nemmeno a tradurla, a Caterini è stato incendiato un altro posto occupato dai neofascisti. Allora, non occupato dai neofascisti, occupato dai compagni, è stato bruciato dai neofascisti. Allora, leggiamo il comunicato del Vox. Nelle prime ore di martedì 3 giugno, verso le 2:30 di notte, alcuni sconosciuti hanno esploso almeno 5 proiettili all'ingresso principale della casa occupata che è Vox. Due dei proiettili hanno colpito le persiane in metallo esterne, mandando in frantumi la porta d'ingresso in vetro. Fortunatamente al momento nessun compagno era dentro la casa occupato. Ultimamente il Kevox, insieme ai residenti, collettivi e combattenti del quartiere, ha realizzato una serie di iniziative per agire contro le gang mafiose e il traffico di droga in Exarchia, che viene fatto con la tolleranza della polizia e le coperture. Mercoledì 28 maggio si è tenuta una grande assemblea per discutere tutto quanto sopra, con la partecipazione dei residenti, dei lavoratori e collettivi di Exarchia. Si è deciso di avviare una serie di azioni contro le mafie e i loro protettori statali, con la creazione di un'assemblea popolare in Exarchia e per realizzare un presidio manifestazione giovedì 5 giugno. Quindi ieri, sì, giusto? Noi crediamo che la sparatoria al Kevox due giorni prima della suddetta assemblea e manifestazione è un tentativo disperato dei trafficanti di droga che in collaborazione con la polizia vogliono trasformare l'area in un ghetto per intimidire il movimento e la comunità locale. È importante ricordare che 12 ore dopo l'incidente i bossoli dell'assalto contro lo scout sono stati trovati e raccolti da noi. Inoltre, la stessa cosa è successa dopo sparatorie tra mafiosi della zona, quando i bossoli sono stati raccolti dagli abitanti del quartiere, dal momento che la polizia, che collabora con le gang mafiose, ha dimostrato una provocante inerzia in tutti questi casi. Dal primo giorno della sua esistenza, Kevox si è opposto all'alleanza tra mafia e la polizia Exarchia, così come alla ghettizzazione della zona. Spesso compagni del Kevox sono stati presi di mira dalla polizia, mafia e gran parte dei mass media a causa della loro attività. Inoltre, non tanto tempo fa, 3 compagni del Kevox sono stati convocati come indagati e portati nel quartier generale della polizia di Atene. L'unica prova contro di loro sarebbe stata una telefonata anonima che li collegherebbe ad un attacco anarchico fatto da un gruppo armato che apparve in piazza sabato 22 marzo 2014 in Exarchia contro lo spaccio. Hanno fallito nel volerci terrorizzare con l'invasione della polizia nell'edificio occupato nell'aprile 2012, con i raid nelle nostre case a gennaio 2014, con la convocazione al quartier generale in aprile 2014 e le continue minacce contro di noi. Così ora hanno tentato di farlo con i colpi di proiettili di uomini armati vigliacchi. Il movimento rifiuta di essere terrorizzato da gente come questa. Chiamiamo il popolo in lotta e solidarietà per partecipare al presidio manifestazione in piazza Exarchia giovedì 5 giugno alle ore 18, quindi sempre ieri. Non un passo indietro, Kevox. E sul sito di redazione potete vedere anche, ci sono le due foto cosa che mostrano i danni provocati dai proiettili esplosi da questi pezzi di merda. E comunque alla fine, cioè, Atene, ma Atene come in tutto il mondo, i pezzi di merda legati alle mafie, alle mafie straniere, io posso parlare della camorra, della dragata, della mafia, non è che si muovono tanto diversamente, gente, dei miserabili che da una parte fanno la lotta allo Stato, però non dimentichiamoci di dire che è sbagliato dire che nelle istituzioni ci sono anche mafiosi. Le istituzioni sono dei mafiosi, tutte le istituzioni sono dei mafiosi, tutte le istituzioni fanno il doppio gioco, mostrano il buon viso, quello dell'istituzione, per le pecore dei cittadini addomesticati, e cattivo gioco facendo traffici illeciti, armi, droga, prostituzione e tutto quello che concerne le varie mafie. Gente di merda che mentre ti dice che è contro gli sbirri, poi li vedi nei quartieri appoggiati col gomito sulla macchina, sulla portiera della macchina degli sbirri, a farsi le chiacchiere oppure a prendersi il caffè. Queste sono le mafie, quindi mai fidarsi e mai stupirsi se vanno a braccetto con la polizia o con le istituzioni. Allora, questo era per quanto riguarda il fattaccio avvenuto al Kevox. Poi o stasera o domani si tradurrà l'attacco di quegli altri pezzi di merda neofascisti all'altro posto occupato, a Caterini. Ora ci ascoltiamo un brano, Placebo Effect, Gallery of Pain, e poi dopo si ritorna qui con altra controinformazione. Thank you. E questi erano Placebo Effect con il brano Gallery of Pain. Allora, un'ultima cosa, sempre ricollegandoci al discorso di prima, tra queste unioni tra mafie, istituzioni, sbirri e quanta merda più possibile. Ricordiamo che nel corso degli anni, specialmente in questo secolo, a partire dagli anni 60, lo Stato ha sempre collaborato, ha sempre finanziato i trafficanti di droga. Ricordiamo che l'ha fatto per destabilizzare i per l'appunto si parlava di connessioni, è arrivata subito la caduta della connessione. Allora, io ho fatto vari esempi per quanto riguarda le alleanze tra istituzioni e sbirri, per quanto riguarda specialmente lo smercio di droga, dicendo proprio come ultimo l'ultima volta che è accaduto è stato durante il G8 di Genova, quando comunque si stava rialzando un pochino il livello di scontro, è stato messo subito a tacere attraverso l'eroina. Chi ha avuto la possibilità di vivere quei periodi sa che comunque tra i movimenti circolava molta di questa merda. Questo per far capire il perché vanno anche a braccetto polizia e spacciatori di droga. Poi sta a noi, qua nessuno è moralista, io non faccio moralista contro le droghe, ognuno, come diceva il compagno Carlo Lopez prima, è libero di farsi tutte le droghe che vuole, quale droga vuole, però bisogna pensare a queste cose, bisogna pensare che la droga non la trovi così, non è che è una cosa che è uscita così all'improvviso e te la mettono là, cioè, e l'hai trovata tu, te la sei fatta tu, a meno che ti fa la piantina di erba in casa, però è stata sempre messa a disposizione nei momenti più critici in cui le istituzioni si sono trovate in difetto e fortemente criticate da gran parte della civiltà mondiale. Allora, dopo questa breve annotazione, ci hanno fatto cadere la connessione, ovviamente si parlava di loro, e quale momento migliore per far cadere la connessione? Ma noi non ci arrendiamo, lo diremo altre 3000 volte, diremo altre 3000 volte che gli sbirri vanno a braccetto con le mafie e che le istituzioni in realtà sono la mafia. Allora, passiamo alla notizia di controinformazione, la nuova notizia di controinformazione, andando ad Istanbul in Turchia, dove è stato incendiato un bancomat dalla cellula nichilista. Nella notte del 29 maggio alle ore 23 abbiamo bruciato un bancomat della succursale della Yapı Kredi Bankası in provincia di Kadıköy, ad Istanbul, Turchia. Questo atto vuol ricordare che senza portare danni al sistema e alle sue istituzioni non si può parlare di libertà. Coloro che pensano di alterare i rapporti di potere e che tendono di essere parte della nostra vita possono solo subire attraverso gli attacchi permanentemente. A chiunque non si senta a proprio agio con la tirannia, con la tirannia, con le forze dell'ordine, l'oppressione e l'apparato statale che produce ingiustizia e le istituzioni finanziarie che tengono per le mani le corde delle nostre vite, vi invitiamo a sabotare e invertire il flusso della vita. Questo atto è dedicato a Berkin Elvan e a Urgut Kurt, che sono stati uccisi dalla polizia. Sabotaggio, danneggiamento, distruzione, cellula nichilista, FAI e Ferrei. E su questo articolo io ho messo una breve nota, perché oramai io ho scritto queste cose. L'evoluzione della FAI e Ferrei, e quindi non parlo dei compagni detenuti in Italia come Fedo Cospito, Nicola Gai o Gianluca Donacci, che sono gli unici per ora ad essersi dimenticata l'appartenenza alla FAI FRI. Poi in Grecia, come i compagni della cospirazione delle cellule di fuoco o qualcun altro, non è diretta a loro, quindi l'evoluzione della FAI non diretta a loro sta diventando una barzelletta. Ora basta veramente una scritta sul muro e viene rivendicata come cellula X FAI FRI. Questo era per ricollegarci anche al discorso che abbiamo fatto ultimamente anche qui su Radiazione, quando si è letto la notizia di quell'attacco in Italia che non si sapeva bene dove fosse avvenuto. Ben vengano le azioni, poi può esserci anche una dimenticanza in un testo, nella fretta, non lo so, può avvenire qualsiasi cosa che uno dimentica di mettere il luogo dove sia avvenuta. Però ora non è tanto il fatto del luogo dove sia avvenuto, è la consistenza dell'azione. Ogni azione ha un suo valore, però bruciare un bancomat e andarsi a filmare con FAI FRI, oppure tagliare le pompe dei distributori della benzina, fare un testo rivendicativo che va oltre, cioè molto più violento il testo che l'azione fatta, come anche in questo caso quello della cellula nichilista FAI FRI che ha bruciato un bancomat. Parlavamo prima della manifestazione di Genova, sono stati bruciati anche durante le manifestazioni. Ben vengano, però qualcosa di strano sta iniziando a suonare, qualche campanello d'allarme sta iniziando a suonare, perché sta diventando troppo lo spettacolo, e non dico chi si è rivendicato l'appartenenza, dico altri gruppi che hanno esposto uno striscione, hanno bruciato un bancomat, hanno tagliato le pompe di benzina e vanno a fare dei testi. E addirittura mi ricordo un testo per aver bruciato un seggio elettorale in cui si diceva l'anarchismo è morto. Altri deliri. Quindi è un campanello d'allarme per quanto riguarda la FAI FRI, che comunque, cioè, non è che c'è un vertice della FAI FRI, però comunque inizierei a pensare su questa cosa che sta accadendo, questa cosa che sta diventando più uno spettacolo e senza disprezzare le azioni. Questo, allora, questa era la nota su Istanbul. Invece un altro breve aggiornamento arriva dalla Bolivia, dove il 29 maggio scorso ancora una volta la magistratura boliviana ha rinviato un'udienza del processo a compagno Enrique Carrundo. Lo fa attraverso mille scuse, tra cui la gran mole di lavoro, tra virgolette, della giustizia. Intanto il compagno è costretto ad aspettare e a dare soldi sia all'avvocato che alla burocrazia. Solidarietà con il compagno Henry. E allora, sotto l'articolo trovate anche il manifesto fatto dai compagni boliviani in solidarietà con Henry Segarrudo. Queste erano le due notizie di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Psycho Beach con il brano Machinery, e poi dopo si ritorna qui con un nuovo testo. We'll be right back. Questi erano Psycho Beach con il brano Machinery. Ora si ripassa dall'altro lato dell'oceano, si ritorna in Cile. Si ritorna in Cile, abbiamo detto prima che oggi 6 giugno ci sarà la sentenza nei confronti dei compagni Freddy Fuentevilla, Juan Alisten Vega e Marcela Villarroel per quanto riguarda il caso Security. Ricordiamo, il caso Security è preso dal nome del Banco Security, il banco in cui avvenne una rapina, una sparatoria, e durante la sparatoria venne ammazzato un carabiniere Moiano. Allora, leggiamo gli aggiornamenti per quanto riguarda il processo, che è arrivato quasi alla fine. Il processo contro i nostri compagni Freddy, Marcello e Juan, accusati per il caso Security, è arrivato quasi alla fine, dopo 46 udienze, e già si profila quale sarà la fine di questo linciaggio. Oggi, 4 giugno, dopo le dichiarazioni dei loro deliri di tutti i querelanti, Ministero Pubblico e Fiscalia, sono iniziate le dichiarazioni delle difese del compagno Juan, ma c'è stato un grande dispiegamento all'interno dell'aula da parte della gendarmeria a causa di un nuovo procedimento di sicurezza contro i nostri compagni e contro le loro famiglie e solidali. La gendarmeria ha ritardato di circa un'ora l'inizio dell'udienza, senza che si sapesse con certezza cosa stavano tramando in quell'occasione. Una volta iniziata l'udienza, la stampa stessa ha fissato la notizia che il dispiegamento era dovuto ad una chiave trovata nel sacchetto con la colazione che una moglie stava portando ad uno dei compagni. La versione delle guardie è cambiata varie volte col passare delle ore. Prima si era parlato di un pezzo di metallo nascosto all'interno di un panino, per poi arrivare alla versione di una chiave per manette presumibilmente nascosta nella cucitura del sacchetto contenente cibo dalla madre del compagno Juan. Dopo la pausa di mezzogiorno, dopo la pausa di mezzogiorno, la stampa, entrando in tribunale, ha fermato la madre di Juan cercando di farle fare una dichiarazione. Nel frattempo, la gendarmeria conferma l'accusa dell'ingresso di una chiave, mostrando una presunta fotografia della chiave, alludendo ad un presunto tentativo di fuga. Tutte le accuse cadono sulla famiglia ed i solidali, in particolare indicando la madre di Juan che nega i fatti. Davanti a questo scenario di provocazione restiamo uniti, affermando che tutto questo apparato di accuse, mediazioni e circo di sicurezza nel tribunale, l'intimidazione fatta ai giudici con la costruzione di soggetti pericolosi, è arrivato giusto il giorno in cui iniziava la difesa di Juan a poche ore dalla sentenza. Freddy, Marcello e Juan furono condannati nel 2007, quando si verificò l'esplorazione e lo scontro armato che culminò con la morte di Moyano, con aperte minacce di morte da parte della polizia, nel 2009 e 2010, quando furono espulsi dall'Argentina e ora anche in ogni udienza del processo. Oggi siamo di fronte solo ad un altro capitolo della repressione, come della lotta orgogliosa che non si arresta e non si arrende di fronte al teatro dell'assurdo carcerario. La decisione e la volontà dei nostri compagni è parte di una transizione storica per combattere il potere, che in questo caso si afferma su fatti concreti contro la dittatura, la democrazia e tutte le forme di dominazione. Siamo orgogliosi dei vincoli, famiglie, affetti e lealtà forgiate con polso che ignorano il ritmo della repressione, minacce, passività e pentimento, perché continuiamo ad essere amore in guerra. Nulla è finito. Solidarios per la revuelta. 4 giugno 2014, Santiago, Cile. Sotto sull'articolo che riguarda questo aggiornamento del caso Security, ci sono anche le foto che mostrano sia il forte dispiegamento di cani in divisa all'interno dell'aula del tribunale. Vedete praticamente i compagni circondati, non solo i compagni Freddy, Juan e Marcello, ma anche i compagni che erano andati a portare solidarietà, e anche le famiglie dei tre compagni detenuti e sotto processo. Prima abbiamo parlato delle carceri messicane, poi si è andato in Grecia. Ogni mondo è paese, le merdate non finiscono mai. Poi sotto c'è anche questo pezzo di metallo, questa chiave che dicono di aver trovato nel sacchetto che portava la mamma di Juan per la colazione al figlio dentro il tribunale. Oramai stiamo facendo pure familiarità con i visi degli sbirri cileni, vedo una pezzo di merda donna che compare praticamente spesso sia nel caso Security, è comparsa all'epoca nel caso Bombas, è comparsa in altri processi ai compagni in Cile, la vedete, è l'unica donna, sta sempre là con il suo sorriso, il suo ghigno del cazzo a fare la splendida, forse pure davanti alle telecamere. Ma sono asessuati, gli sbirri sono asessuati, non hanno sesso, quindi non fate commenti sulla sbirra di merda cilena. Allora, questa era la notizia che arrivava da Cile per quanto riguarda gli aggiornamenti per quello che è accaduto prima dell'udienza in cui doveva dichiarare la testimonianza di difesa di Juan. Lo ripeto, aspettiamo gli aggiornamenti per quanto riguarda la sentenza, che è prevista per oggi alle 14. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Plastic Noise Experience con il brano Dream Distractor, e poi dopo si torna qui e ancora Controinformazione. We'll be right back. Street Destructor. E questi erano Flexing Noise Experience con il brano Dream Destructor. Ora si passa per ora all'ultima notizia di controinformazione, però dopo questa notizia manderò un brano un pochino lunghino, così il tempo per andare a guardare un attimo se è arrivato l'aggiornamento sul caso Security, se c'è qualche altra notizia interessante da leggere prima di chiudere la diretta di oggi. Allora, prossima notizia riguarda il Mainazzo di Genova, che ci fa sapere che oggi alle ore 19, quindi tra mezz'ora, ci sarà la presentazione dell'opuscolo Divide et Iudica, il labirinto processuale del 15 ottobre al Mainazzo in piazza Santa Maria in Passione Genova. Ricordiamo che il Mainazzo già da qualche giorno ha anche un blog che potete visitare attraverso la categoria dei link che trovate sulla sinistra, ci sono i link con i vari siti e trovate anche quello dei compagni del Mainazzo. Allora, leggiamo il testo preso per quanto riguarda l'iniziativa dal blog dei compagni di Genova. Il 4 aprile 2013 è iniziato il processo che vede imputate 25 persone per la rivolta del 15 ottobre 2011 a Roma. Ma cosa è successo quel giorno? Una mobilitazione mondiale contro le politiche di austerità si annunciava come la solita protesta pacifica e moderata nelle strade della capitale. I soliti politici di sinistra, già pronti a riciclarsi e a cavalcare l'onda del malcontento, contribuivano a rendere gli slogan solo parole vuote, sperando così di evitare il nascere di un'espressione reale e radicale della protesta. Ma avevano fatto male i conti. Per migliaia di persone non era possibile indignarsi e piagnucolare contro le misure di austerity. Non era accettabile sfilare per elemosinare modifiche al sistema. Perché non scagliarsi tutti insieme contro chi ci sfrutta e opprime ogni giorno? Banche e agenzie interinali lungo il percorso del corteo vengono attaccate, le loro vetrine sfondate. Solo una briciola, una piccola parte della violenza che ogni giorno questi uffici esercitano sui poveri e sfruttati viene rispedita a mittente. Il corteo prosegue e i manifestanti si scagliano contro una caserma dell'esercito italiano, i vetri infranti e il palazzo viene parzialmente distrutto da un incendio. Questa è una normale e istintiva risposta al terrore e alla devastazione che i nostri eroi, tra virgolette, causano con le bombe sganciate sulle popolazioni nei territori di guerra come in Iraq, Libia, Afghanistan. Un'espressione di ribellione contro chi quotidianamente bombarda, stupra, massacra in giro per il mondo. Alcuni tra i promotori e partecipanti alla manifestazione dispongono servizi d'ordine ad hoc per impedire qualsiasi azione non in linea con la parata pacifica da loro auspicata. Fanno cordoni non per proteggersi dalla polizia, ma per bloccare eventuali facinorosi. Sono pronti a contrapporsi fisicamente per difendere i luoghi e i simboli del potere. Si calano nel ruolo degli sbirri, aggrediscono gli altri manifestanti, li fotografano, li chiamano fascisti e intervengono in modo attivo aiutando la polizia ad identificarli. Le forze dell'ordine caricano duramente la parte del corteo già arrivata a piazza San Giovanni, dove il corteo dovrebbe concludersi con un comizio politico, premeditato da vari gruppi e partiti per promuovere una soluzione democratica alla soluzione di esasperazione che aveva portato a quella giornata. Questa carica è la goccia che fa traboccare il vaso, è la scintilla che scatena il desiderio di rivolta tra i manifestanti. Gli sbirri che manganellano i pacifisti con le mani alzate saranno costretti alla ritirata da chi capisce che le mani è meglio usarle per lanciare i sanpietrini sradicati dall'astricato della piazza. Il blindato dei carabinieri che tentava deliberatamente di investire la folla con assurdi caroselli in una piazza gremita viene assaltato lo scellerato autista si salva per miracolo e il mezzo viene dato alle fiamme, illuminando San Giovanni e i cuori di chi ha scelto di non abbassare la testa. Sul retro del mezzo in fiamme qualcuno traccia la scritta ACAB, Carlo vive. Solo più tardi si scoprirà che, ironia della sorte, quel blindato proveniva proprio da Genova e dalla caserma di Bolzaneto. Dopo anni di richieste di verità e giustizia sui fatti del G8, l'unica giustizia possibile arriva alle mani della nuova generazione di incappucciati. Carlo, ucciso per aver scelto la via della rivolta a quella della rassegnazione di una protesta falsa, dopo anni di pallida commemorazione, vive per davvero, in mezzo a tutte quelle persone che circondano e assaltano la camionetta. I giorni seguenti vengono lanciati dai media appelli alla delazione e all'infamia. Si chiede alla popolazione ancora turbata per la furia distruttiva della manifestazione di fornire alla polizia foto e video al fine di aiutare l'identificazione e l'arresto dei violenti. Nel corso di poco più di un anno 41 persone vengono denunciate, indagate, sottoposte a misure cautelari o arrestate per reati come devastazione e saccheggio e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Gli arresti sono isolati, eseguiti in tempi diversi, in sordina. Gli individui vengono imprigionati e processati violentemente, condannati con il meno clamore possibile. L'obiettivo di colpire uno ad uno è finalizzato ad isolarli e a smorzare fisico e animo. Lo scopo è far sentire gli imputati soli, difesi e, perché no, cercare di spingerli al rimorso, al pentimento. Questo gioco che porta avanti la giustizia di Stato può avere effetti devastanti e di fatto degli effetti ci sono stati. 16 condanne in un anno con pene pesantissime dai 2 ai 9 anni, dovute in parte a scelte processuali di difesa tese a ridurre i danni. Non si può certo biasimare chi ha scelto di difendersi con riti abbreviati o patteggiamenti in questo clima di solitudine creato ad hoc, ma coscienti di questo possiamo impugnare l'arma della solidarietà in modo che queste differenziazioni non si ripetano un'altra volta, di modo che mai nessuno possa sentirsi abbandonato, che mai e nessuno venga in dubbio che non se ne valga la pena. Non possiamo permettere di farci infettare dal virus del rimorso. Vogliamo invece ribadire che da Genova a Roma, da Atene a Londra, ogni fuoco di rivolta è stato alimentato dallo stesso spirito di rabbia che per sempre ci scalderà il cuore. Quando la rivolta esplode, tutto cambia, le città vengono stravolte, i nostri cuori battono all'unisono. Tutto è raggiungibile e attaccabile. A chi sogna che la routine delle strade attraversate ogni giorno sia rovesciata dalla gioia della rivolta. Sta a tutti noi rompere l'isolamento che vorrebbero creare intorno a noi, ad ogni imputato. Le 3.000 persone in corteo a Teramo in risposta alle prime condanne per devastazione e saccheggio, gli attacchi alle banche e alla polizia schierate durante il corteo del 16 marzo a Milano in memoria di Tax, ucciso dai fascisti nel 2003, tutte le azioni dirette e le manifestazioni di solidarietà che hanno avuto vita in questi ultimi anni dimostrano che farlo è possibile. Che l'ego delle nostre urla di rabbia si diffonda ovunque, che tutti gli inquisiti per le lotte e le rivolte di questi anni non restino soli. Che il fuoco che arde dentro di noi si propaghi nelle nostre città. Solidarietà a Fra, solidarietà a tutti i processati per la rivolta del 15 ottobre. E questo era il testo apparso sul blog dei compagni del Mainazzo di Genova. Io ho preferito prenderlo e pubblicarlo, i compagni mi avevano mandato il manifesto dell'iniziativa, giusto le indicazioni e basta. Poi guardando il loro blog ho trovato il testo e ho deciso di pubblicarlo. Questo perché dallo stesso sottoscritto io stesso da una decina d'anni critico molto fortemente come pratica di lotta alla piazza e alla manifestazione. Perché? Perché la critico? Perché comunque abbiamo capito che dopo Napoli, dopo Genova, qualche conto non tornava più. A Napoli ci è andata bene, perché a Napoli fortunatamente è andata molto meglio rispetto a Genova, perché fortunatamente la media è stata 117 sbirre all'ospedale e 17 tra i manifestanti, pochi arresti e subito rilasciati, nonostante sia accaduto quello che chi c'era all'epoca ha ben presente. Genova si pensava che si sarebbe arrivati oltre Napoli, oppure comunque sarebbe accaduto la stessa cosa di Napoli, però comunque come a Napoli così a Genova molto più fortemente. All'epoca c'erano i disobbedienti alle tute bianche che hanno fermato, fotografato, aggredito i compagni che avevano deciso di manifestare in modo diverso. Allora, se io vado a criticare il metodo di lotta come quello della piazza, della manifestazione, è perché comunque come anarchici in Italia non siamo più stati capaci di organizzare cortei solo anarchici. Allora, all'epoca si poteva andare a criticare quelle che noi chiamavamo i pianti dei disobbedienti, che dicevano che buona parte di quello all'epoca il Black Bloc si infiltrava nelle loro manifestazioni per fare dei casini quando non avevano le palle di farli da solo. All'epoca erano dei piagnistei fatti da politicanti che poi abbiamo visto anche al governo, come Francesco Caruso, che ad Atene a Salonicco è stato salutato come si meritava, da Casarini oppure da Agnoletto. Questi tre sono bastati per mettere il cappello in testa a tanta gente, tanti rincoglioniti disobbedienti, con alleanze in tutti i generi. Vabbè, diciamo che non cambiamo un cazzo rispetto a quello che sta accadendo ora in Val di Susa con tutte le alleanze, solo che all'epoca l'hanno fatte le disobbedienti, ora li fanno anche gli anarchici, queste alleanze con chiunque, con associazioni cattoliche, con politici di sinistra, con associazioni e cazzi e mazzi. Allora, quello che dicevo io, da Genova in poi non si è stati più capaci, solo come anarchici, scendere in piazza e fare quello che è accaduto a Napoli, a Genova, a Salonicco, a Barcellona, a Seattle, a Davos, a Gothenburg, in Germania, un po' in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Non siamo stati capaci di fare questo. Poi ripeto che quindi mi viene da pensare che oramai sia diventato un fatto di cui approfittare, entrare nelle manifestazioni organizzate dagli altri e fare per comodità quello che si potrebbe fare tutti i giorni, perché quegli obiettivi, gli stessi obiettivi, sono lì presenti tutti i giorni e con meno controllo rispetto alle tante volte. Questo l'ho detto all'epoca di Genova, questo lo ripeto ora dopo 13 anni, non ha cambiato un cazzo. Quindi secondo me, se si entra nelle manifestazioni degli indignados o di politicanti disobbedienti, non lo so se esistono ancora i disobbedienti, oramai anche loro sono divisi in 40.000 gruppi, quelli più istituzionali, quelli meno istituzionali, sono tutti istituzionali alla fine, è tutto un lavoro di facciata, scazzi a chi deve prendere la leadership del movimento in quella zona. Allora, dicevo, vabbè, gli obiettivi sono presenti in ogni istante, sono presenti da sempre negli stessi luoghi, nelle stesse ore di quando ci sono le manifestazioni, oppure anche nella notte. Quindi evitiamo, se vogliamo entrare nelle manifestazioni di questa gente, facciamolo solo per un motivo, e là sarei d'accordo e verrei anche io e ci metto la voce, la faccia e il nome per chi mi conosce. Entriamo là e massacriamolo di botte, perché certa gente non merita un cazzo, certa gente è infame, certa gente, se può, ti porta e ti arresta. Questa gente tra qualche anno la vedi al governo, la vedi arruolata tra le forze dell'ordine, la vedi che il gruppo ti massacra di botte per strada o cerca di massacrarti di botte per strada. Quindi questa gente per me merita le botte e non di avere un numero di compagni all'interno della manifestazione che poi gliela spettacolarizza pure. Non è dovuto, non dico che l'incendio al Palazzo dell'Esercito sia uno spettacolo, però comunque hai dato rilevanza a quella manifestazione. Questo per quanto riguarda la critica. Poi ovviamente questa è la critica mia per cui io non partecipo alle manifestazioni. Un altro discorso è quello di non portare solidarietà ai compagni che vengono arrestati e che ci credono ancora in una pratica come la manifestazione. Questo è tutto. Penso che ora mandiamo un brano dei Byton, un brano lunghettino, Black Peas, nemmeno a farla apposta, Black Peas, e poi dopo si ritorna qui o con i saluti finali oppure con un aggiornamento che si aspetta da Santiago del Cile. Allora, ho dato uno sguardo, non ci sono ancora aggiornamenti sul, per quanto riguarda la sentenza sul caso Security dei compagni in Cile, Freddy Fuentevilla, Marcello Villarroel e Juan Aliste. Sicuramente, almeno da quello che abbiamo pure letto prima negli aggiornamenti, la sentenza ce l'aspettiamo. C'è una tanta sete di vendetta da parte di quei pezzi di merda divisa che sicuramente faranno di tutto per infliggere una sentenza molto pesante ai compagni. Poi speriamo che una volta su 100 può andare bene anche a noi, e quindi che vengono assolti. È un po' difficile, però l'1% di speranza ce l'abbiamo. Allora, quindi appena si avranno gli aggiornamenti, la notizia verrà pubblicata sul sito di Radiazione, radiazione.org. Invece ricordo che l'appuntamento con la prossima diretta d'azione è per lunedì 9 giugno, diretta d'azione che oltre alla controinformazione e alla musica ci sarà soprattutto lettura dei Sabotatori di Edward Ebbey. Ci sarà Marcello con me, non sarò da solo, quindi non avrò la gola quanto un paurone, accollerò gran parte, è vero, accollerò gran parte della diretta a Marcello, quando c'è Marcello, perché le letture sono molte di più rispetto alle notizie di controinformazione, quindi anzi poi dobbiamo pure tentare di portare a finire questo libro prima che arriva a metà luglio o per la metà luglio, per evitare di incappare una ennesima diretta di 5-6 ore come è stata per il luglio dello scorso anno. Quindi lunedì 9 con i Sabotatori di Edward Ebbey, con la controinformazione e la musica. Gli indirizzi utili sono radiazione@vistici.org per chi vuole mandare comunicati, scritti, notizie di iniziative in giro per il mondo. Il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, scaricarvi testi o manifesti o buscoli e quant'altro nella pagina download, e riascoltare le dirette d'azione nella categoria ascolta le dirette d'azione. Il lettore flash player ce l'avete, il banner pure per cliccare e ascoltare la diretta ogni lunedì, ogni venerdì dalle ore 17, per chi vuole avviarsi prima dalle 15.45 con playlist musicale, o come abbiamo fatto oggi con la diretta di lunedì scorso, la diretta precedente. Vi saluto e appuntamento a lunedì alle ore 17. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione.